Si chiama Eagle, l'ultimo gioiello tecnologico della IPC. Un robot per pulire le facciate a vetro dei grattacieli senza l'impiego di manodopera appesa a centinaia di metri di altezza. Eagle, frutto di un brevetto internazionale chiamato Sky Pro, cala dall'alto e si muove con un braccio meccanico allungabile, comandato a distanza da un sistema wireless. Massima sicurezza, dunque, ma anche grande risparmio economico e tempi di pulizia che da giorni e settimane si riducono a poche ore. Una rivoluzione, insomma. Non a caso l'Aquila Veneta sta suscitando enorme interesse negli Stati Uniti. Il primo robot lavavetri è stato acquistato dall'hotel casinò Windy Las Vegas, un gigante da 2700 camere. Subito una cosa, quanto costa una macchina del genere? Allora, ci sono diverse taglie, diverse dimensioni. Diciamo, quella che è andata a Las Vegas, Ecco, la macchina di Las Vegas costa in euro intorno ai 100.000 euro, mentre la macchina più piccola, dimensione portatile, più utilizzabile anche da un'impresa di pulizia, grosso modo, poi dipende dall'accessoristica, delle dimensioni, il minimo parte intorno ai 40.000 euro.